Salve, famiglia New Hope. Spero che voi ragazzi siate pronti per la parola, spero che abbiate le vostre Bibbie aperte. Leggerò da Matteo 16, 18. È stata una settimana piena, siamo stati in tre diversi stati. Stamattina sono partito dal Tennessee, adesso sono tornato in Texas. Sono arrivato appena in tempo per predicare la parola oggi. Per voi, perché voi possiate vederla domenica mattina, a meno che voi ragazzi vi trovate qua nello stato e mi state guardando adesso. Sono contento di vedervi, che vi state unendo a noi. E se avete già Matteo 16, 18, invitiamo lo Spirito Santo, ovunque voi siate, nel vostro soggiorno, al lavoro, al vostro comando, possiamo adesso pregare. Che lo Spirito Santo apra la sua parola oggi per noi. Padre, nel nome di Gesù, veniamo oggi davanti a te chiedendo per grande potenza, grande presenza e grande unzione. Abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno che tu venga e soffi sulla tua gente. Abbiamo bisogno della tua presenza unificante, abbiamo bisogno che tu, Spirito Santo, venga a testimoniare, renda questa parola viva. Ti chiediamo di visitare ogni famiglia, ogni individuo, ogni singola persona che stia guardando questo e ascolta la tua parola. Incoraggiaci, lasciaci credere che per fede ogni cosa andrà a posto. E Padre, ti ringrazio oggi per chi tu sei, per quello che fai e per come parli a noi. Ti chiedo oggi nel nome di Gesù questo e dico Amen per tutti voi. Bene, guarderemo Matteo 16, 18. Leggerò solo un verso della scrittura. Non è la prima volta che ho predicato questo. Se siete sotto il mio ministero, se siete in qualunque di in questo periodo, se soprattutto a New Hope mi avete sentito riferirmi a queste cose che sto per predicarvi, e in particolar modo proprio da Matteo 16. Non molto tempo fa, forse 1 o 2 anni, ho predicato proprio su questo verso e su questo argomento. Questo è quello che Gesù dice a Pietro quando erano a Gerusalemme. E Gesù chiedeva ai suoi discepoli chi dicono che io sia. Quindi questo è quello che Gesù dice a Pietro mentre si trovano a Gerusalemme. E Pietro stava chiedendo. E Gesù stava chiedendo ai suoi discepoli chi gli uomini dicono che io sono. E Gesù dice, e io ti dico che tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E guardate la seconda parte, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Spero che l'abbiamo colto questo, perché questa è la chiave di tutto. Se avete la Bibbia, sottolineate questo, perché è veramente imponente. Ne parlerò ancora, ci tornerò. Ho parlato di questo le ultime 2 volte che ho predicato e lo ridico anche stamattina, che in tutto il mondo la Chiesa, proprio in questo momento, in tutto il mondo, è costretta a guardare verso l'interno. Siamo costretti, come noi nella nostra famiglia, a fare una sorta di introspezione. Io sono grato che questo stia accadendo, che noi possiamo controllare, verificare con noi stessi le nostre priorità e fare un inventario. E noi che frequentatori di chiesa adesso stiamo rivalutando la nostra propria visione di che cosa significhi essere la chiesa. Adesso, nel normale flusso delle cose, settimana dopo settimana, mese dopo mese, se noi perdiamo un culto in chiesa, a volte siamo occupati, a volte sta accadendo qualcosa, forse abbiamo fatto un viaggio o una gita, o siamo coinvolti con qualcosa, siamo impegnati, a volte perdiamo un culto, lo saltiamo, uno qui, uno lì, ma anche se questo non è proprio la nostra normalità, perché di solito nel nostro flusso regolare di chiesa, noi ce ne accorgiamo. A volte, se voi siete molto coinvolti con la chiesa, il pastore se ne accorge. Se no, se ne accorge magari chi è seduto normalmente accanto a voi, perché voi siete abituali frequentatori della chiesa. perché è così normale, è così routine che quando perdiamo la chiesa noi siamo tranquilli perché tanto la chiesa sarà sempre lì la prossima volta. Ma partiamo per 2 settimane, non è un problema, la chiesa sarà sempre lì, io ci sarò sempre, il pastore sarà lì a lodare, a pregare. Tutto così fino adesso. Adesso non è più lì la chiesa per noi, non possiamo più correre lì la mattina della domenica. Tutti quelli che stamattina state guardando qui negli Stati Uniti o voi che siete in Sicilia e ci vedrete domattina, non potete dire mi alzo e vado lì. Forse per voi non è stata la routine, forse avete trovato scuse, vi siete permessi facilmente di andare in chiesa. Ogni tanto, quando niente di meglio accadeva, siamo anche onesti, a volte avete una serie di ragioni per cui non andate sempre in chiesa. O non siete stati inseriti, perfettamente connessi in una famiglia di Dio. Adesso che non la possiamo avere, adesso che non possiamo avere la chiesa, adesso che non possiamo accedervi, c'è un'autovalutazione che sta accadendo, perché spesso quando ci viene a mancare qualcosa è il momento in cui ci accorgiamo delle cose che contano per noi. Ora che improvvisamente non possiamo averlo, è il momento in cui gli diamo più valore. Come capita quando perdiamo, per esempio, sfortunatamente, tristemente, una persona amata, un lavoro, una qualcosa che davamo per scontato e non possiamo più avervi accesso. Questo è forse proprio quello che sta accadendo nel mondo della Chiesa. Non è qualcosa come i soldi o come i diritti civili, andare in chiesa. Riunirsi nella casa di Dio è qualcosa di diverso. Forse voi andate in una grande chiesa, una chiesa, tutta igienizzata, industrializzata. Forse il pastore non vi conosce, voi non lo conoscete, forse non vi manca così tanto la casa di Dio, ma se voi frequentate in un posto diverso, se in particolare se frequentate New Hope e catturate davvero, cogliete il concetto di che cosa significa essere una chiesa, essere amati, conosciuti, che si preghi per voi, che avete un pastore che vi conosce, voi conoscete il vostro pastore. Forse in questo momento avete nostalgia della vostra famiglia di chiesa, vi manca. Quale migliore momento per noi per cogliere spiritualmente, teologicamente, che cosa questo accade, questo cosa significhi? Voglio davvero che prendiate note perché vi darò degli insegnamenti teologici. Voglio rivisitare la definizione di chiesa. Quindi anche la parola chiesa. Quando noi diciamo la parola chiesa abbiamo delle immagini mentali, un edificio, a volte in cui persone amano diventare, mostrarsi iperspirituali, ma quando noi diciamo chiesa stiamo parlando di una riunione locale di credenti in un luogo centrale. Quindi la parola inglese per chiesa, church, non è una traduzione perfetta per l'originale parola greca. E church, la parola inglese viene dalla Germania, dalla parola tedesca, Kirche, che traduce più che altro casa di Dio, che non è esattamente quello che la Bibbia invece coglie come parola chiesa. L'originale greco della parola church è chiesa, è ecclesia ed è una parola appunto greca. E la parola quindi ecclesia in greco è una parola più profonda della traduzione inglese casa di Dio. Spesso nel Nuovo Testamento ecclesia significa i chiamati fuori, i prescelti, i convocati, dove gli ebrei l'ebraico avrebbe usato la parola riuniti, viene usata quasi allo stesso modo la parola ecclesia. Ovunque nel vostro Nuovo Testamento leggete la parola ecclesia, significa appunto riuniti o i convocati, chiamati fuori. Significa i chiamati e i riuniti o la riunione dei chiamati. Ed è questo è molto potente perché proprio in È molto potente perché cambia la visione di che cosa sia veramente la Chiesa, di che cos'era la Chiesa nei primi anni, la riunione dei chiamati, dei prescelti, dei convocati, ecclesia, i chiamati. Cosa vuol dire questo? Stiamo parlando dei nati di nuovo, dei senza vergogna, i santificati, i giusti, i comprati con il sangue, i battezzati nello Spirito, coloro che hanno invocato il suo nome per la salvezza, i chiamati, appunto i convocati, chiamati fuori. E che significa i riuniti, raccolti, convocati, riuniti alla sua presenza, riuniti per il suo scopo, riuniti spalla a spalla, l'uno accanto all'altro, faccia a faccia, in un luogo, in un posto, come un unico corpo di Cristo. Questo è chiaro, non si sa perché ci possa sfuggire. Che cosa può esserci che ci può confondere su questo? Perché cerchiamo di ridefinire che cosa sia la Chiesa? Che cosa ci sta presentando Gesù qui nel Vangelo di Matteo? Che cosa ci sta dicendo? Su questa pietra io edificherò la mia ecclesia. Ora, quando Gesù usa la parola ecclesia qui in Matteo, è la prima volta che vediamo la parola usata così nella Bibbia. Comunque, non è il termine originale che Gesù aveva utilizzato. Gesù sta prendendo in prestito, questo è qualcosa di veramente sensazionale, prendete nota di questo, sta prendendo in prestito la parola ecclesia dal governo greco. E vi spiegherò questo tra un momento. La parola ecclesia nell'antico greco era una riunione insieme di capi provenienti dalle città-stato greche e dovevano avere delle qualifiche. Bisognava essere almeno di 20 anni, essere maschi e bisognava aver servito nel militare. Quindi se avevate più di 20 anni, avevate servito nel militare, eravate maschi, avreste potuto essere parte della ecclesia. Bisognava essere qualificati e di tanto in tanto il governo greco chiamava una convocazione, una riunione dell'ecclesia, si incontravano in un certo specifico edificio in Atene allo scopo di discutere questioni, promulgare leggi, decidere se andare o meno in guerra, se imporre o meno una tassa, erano un corpo legislativo di governo con una chiara autorità. Ora, sentite qui, l'ultima volta che ero ad Atene, io e mia moglie camminavamo tra le strade dell'antica città, io mi trovai di fronte all'originale ecclesia, l'edificio dell'ecclesia, c'erano le rovine, le fondamenta. Leggevo l'insegna e questo era il luogo in cui i greci prendevano decisioni per la grande nazione greca. Gesù, che era cresciuto con la cultura, con l'influenza greca, dice la parola ecclesia. Quando dice queste parole, potete stare certi che si riferisce all'ecclesia greca. Certo, perché i greci avevano questa ecclesia questo corpo qualificato per decidere con autorità in nome della nazione. E Gesù dice: io costruirò la mia ecclesia e sarà un'ecclesia che non sarà un sistema politico. Quindi quello che Gesù sta dicendo è che quelli che confessano che io sono il Cristo, il figlio del Dio vivente, su di loro io costruirò la mia ecclesia spirituale. E noi traduciamo questo in inglese come la mia chiesa. Ma Gesù dice la mia ecclesia, questo significa qualcosa di più di quello che intendiamo noi nel reame antico. Gesù sta dicendo io costruirò una ecclesia, un'autorità legislativa, una assemblea che ha il compito di legiferare e le porte dell'inferno non preverranno contro questa ecclesia. Immaginate un po', quando ero ad Atene ho visto queste rovine dell'ecclesia e questo mi ha ricordato che i politici, che i sistemi umani, i politici falliscono, vengono a mancare, ma che l'ecclesia costruita da Gesù ha autorità e potere sul cielo e sulla terra e ancora rimane in piedi molto più a lungo, molto tempo dopo che l'originale ecclesia secolare è scomparsa. Lasciatemi condividere qualcosa su questa ecclesia che Gesù ha stabilito, perché voglio dissolvere alcuni miti comuni che noi abbiamo su di essa. Lo farò fra un momento, ma intanto in 1 Corinzi 1 e 2 Paolo chiama ecclesia, lui dice ecclesia, i santificati. In Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Signore no, loro e nostro. Chi è l'Ecclesia? Chi è dunque la Chiesa? I santificati, chiamati ad essere santi, quelli che sono stati messi da parte, gli appartati, che invocano il nome del Signore. In Efesini 5:25 la Bibbia ci dice che Cristo ha amato la Chiesa così tanto che ha dato la sua vita per lei. In Efesini 5:29 Paolo ci dice che Gesù ama la Chiesa come una sposa e la nutre e la cura teneramente. Colossesi 1:18 ci dice che lui è il capo del corpo, che è la Chiesa. In 1 Timoteo 3 e 15 la Bibbia chiama la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. In Ebrei 12, 23 chiama la Chiesa l'Assemblea generale e la Chiesa dei primogeniti che sono scritti, registrati nei cieli. Lo cogliete questo? La Chiesa è la Chiesa dei primogeniti e i nostri nomi, i nomi della Chiesa, sono registrati nei cieli. Questo è quello che concludo da questo. Ragazzi, la Chiesa non è una graziosa, piccola, piacevole riunione con gruppi di donne o altri tipi di organizzazioni nelle quali le persone possono riunirsi e familiarizzare. Questa non è la Legione Americana, non è una loggia massonica, non è il gruppo dei libri dell'orrore che ti dà i brividi, è qualcosa che Cristo ama, nutre, cura, ama teneramente. Lui la adora, per cui è morto, che ha lavato, che ha chiamato, che ha convocato e ha registrato, iscritta nei cieli, e lui è il capo di esse. Noi siamo il corpo vivente di Cristo, e questa è una cosa potente, e dovrei continuare. Potrei continuare, ma davvero dovrebbe cambiare completamente il nostro essere, tutto il nostro atteggiamento verso parte della Chiesa. Ascoltate, noi viviamo con la Chiesa dei giorni nostri in una cultura dell'individualismo. Questo viene fuori anche nel modo in cui lodiamo, nei nostri cantici. Ci sono canti che dicono: mentre lui era sulla croce, io ero nella sua mente. Fantastico, sembra tutto molto bello. E questo, ma in realtà tutto il mondo era nella mente di Cristo in quel momento, non era un individuo. In un altro canto diciamo: Gesù ha fatto tutto questo solo per me. No, l'ha fatto per l'intera umanità, ma l'idea è che c'è questa idea dell'individualismo. Infatti sento spesso le persone dire: se io fossi l'unico umano sulla terra, Gesù sarebbe lo stesso venuto a morire sulla croce per me. Davvero? Non sono certo che questo sia davvero biblico. So che l'intenzione è dimostrare quanto è potente l'amore di Dio per noi, ma è importante ricordare che Adamo ed Eva erano le uniche due persone sulla terra e Gesù non è venuto giù sulla terra e non è andato sulla croce per loro. Loro sono stati cacciati dal giardino e hanno avuto le conseguenze. Quindi dobbiamo renderci conto di quanto intenso sia questo individualismo che noi stiamo vivendo, ma il linguaggio del Nuovo Testamento non lascia molto spazio per individualismo, indipendenza, autonomia e parla di una comunità interdipendente. Questa è la Chiesa e non c'è spazio per l'individualismo, ma sempre per il corpo di Cristo strettamente congiunto. So che questa è una idea impopolare, forse. Ma noi siamo la Chiesa e noi dobbiamo davvero valutare quello che ci stiamo perdendo e dobbiamo comprendere, è importante, che quando Gesù dice che ha lasciato i 99 per l'una, è vero, verità biblica, ma che cosa ha fatto con la pecora smarrita? L'ha restaurata all'interno del gregge. Quindi l'azione importante è la restaurazione all'interno del gregge. Vuole che la pecora sola sia parte del gregge. Il linguaggio della redenzione è un linguaggio plurale. Dio ha tanto amato il mondo. Il linguaggio è comunitario. Questo modello che noi vediamo è ricorrente. Guarderò il verso di nuovo tra un po'. Ma gli individui che vengono salvati nel libro degli Atti, la Bibbia dice, e venivano aggiunti ogni giorno alla chiesa. Venivano aggiunti alla ecclesia. Sono molto eccitato rispetto su questi argomenti, su questa cosa, perché mi rendo conto che la Chiesa, quindi le persone salvate venivano aggiunte alla Chiesa, Atti 2:47. La nostra comprensione parziale della Chiesa ci ha portati al punto in cui a volte le persone si sentono isolate in Chiesa, alcune saltano da una Chiesa all'altra, oppure non gli piace qualcosa della Chiesa, prendono un gruppo e vanno a fare un'altra Chiesa, Chiese individuali, gruppi individuali. Non ho niente da criticare su questo, ma bisogna comprendere, quando noi comprendiamo davvero cos'è il corpo di Cristo, questo cambia completamente la nostra comprensione, soprattutto se voi avete a che fare con i non salvati o con persone che quando voi parlate di Gesù vi lanciano contro delle cose. Ci sono delle cose che è importante che voi sentiate, che voi prendiate note, perché voglio che voi sappiate cosa dice la Bibbia. Vi voglio parlare specificamente su tre o quattro miti che vengono normalmente lanciati contro di noi, tre o quattro miti che riguardano la Chiesa, e voglio darvi la comprensione del perché non sono per niente biblici e perché le persone hanno una erronea comprensione della Chiesa. Io faccio questo annualmente, io leggo la. Quindi la prima la sento dire almeno 3-4 volte l'anno. Non devi andare in chiesa per essere un cristiano, non è necessario andare in chiesa per essere cristiano. Alcuni di voi forse siete in questo pensiero, forse voi parlate con i vostri amici o famiglia e loro vi rispondono, voi non è necessario andare in chiesa per essere cristiani. Questa cosa, quando la sentiamo dire troppo, e poi ci viene detta continuamente, si comincia a crederci, ma la prossima volta che qualcuno vi dice non è necessario che tu vai in chiesa per essere cristiano, chiedetegli, tu come cristiano mi vuoi mostrare nelle scritture dove trovi questa idea? E io vi posso promettere che forse non conoscono la Bibbia abbastanza, ma se la conoscono possono trovare veramente quasi zero scritture che dicano questa cosa. Guardate, questa è la verità di fondo. Se voi comprendete che cos'è l'Ecclesia, se voi guardate Atti 2:47, l'ho appena menzionato, è proprio lì dove viene detto chiaramente il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno, all'ecclesia ogni giorno quelli che venivano salvati. La traduzione italiana dice il loro numero, ma nell'originale è alla chiesa. Se venivano salvati, venivano aggiunti alla chiesa. Ma se non venite aggiunti alla chiesa, allora forse siete in un posto dove non avete veramente compreso la salvezza. Tutti coloro che venivano salvati giornalmente, il Signore li aggiungeva loro all'assemblea dei credenti. Quindi, dov'è che Dio vi mette quando voi venite a Lui? Nell'assemblea. Dov'è il buon pastore mette la pecora smarrita? Nell'ovile con il resto del gregge. Ragazzi, questo è qualcosa di chiaro, è totalmente chiaro nella Bibbia. Paolo lo rende chiaro in 1 Corinzi 12. Scusate, 1 Corinzi 12. Verso 20, Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano, non ho bisogno di te, né il capo può dire ai piedi, non ho bisogno di voi. Voi vedete la mia testa, le mie mani, queste varie parti del corpo ci sono tutte, ma questo è un unico corpo, appunto, l'occhio non può dire alla mano io non ho bisogno di te. Allo stesso modo, la testa non può dire all'orecchio io non ho bisogno di te, il piede non può dire alla gamba io non ho bisogno di te. E tu non puoi dire alla Chiesa io non ho bisogno di te, al corpo di Cristo. Questo è l'insegnamento di Paolo. Quindi veramente lasciamo adesso, liquidiamo questo mito che non è necessario andare in chiesa per essere cristiani. Io dico, e la Bibbia è chiara su questo, che quando tu sei un cristiano, Dio ti aggiungerà alla chiesa. Quindi non siete felici come credenti nati di nuovo, che noi siamo parte di questo corpo di Cristo mistico e che Lui ci conosce, ci ama, ci cura e ci ama teneramente. Secondo mito, io non vado in chiesa perché è piena di ipocriti. Quanti di voi avete sentito questo? Forse qualcuno l'ha sentito questa stessa settimana. Potrei dire veramente tanto su questo mito, ma prima di tutto interpretiamo, meglio definiamo la parola ipocrita, perché spero che state prendendo note, perché vi potrebbe servire quando qualcuno affronterà questa questione. L'ipocrita è definito così uno che vive in contraddizione allo stato delle sue convinzioni, ciò in cui crede. Quindi io non credo nell'ubriachezza, ma vado a ubriacarmi. Io non credo nell'immoralità sessuale, ma vado a commettere adulterio. Significa anche qualcuno che finge di essere giusto. Quindi alcune persone dicono: io non vado in chiesa perché è piena di ipocrita, cioè pieno di persone che ne vi dicono una cosa e ne vivono un'altra, è pieno di persone che fingono di essere cristiani. Wow, questa è un'affermazione audace, perché questo presuppone che la persona che fa questa affermazione conosca bene lo stato spirituale di ogni persona nel corpo di Cristo. Io sono un pastore e io stesso non riesco ad avere un pieno polso, una piena consapevolezza delle persone che sono sotto la mia cura. Immaginatevi quanto può saperne uno che viene ogni tanto in chiesa. E ascoltate, se qualcuno crede che la chiesa è piena di persone che fingono di essere cristiani, ascoltate questo. Fingere di essere cristiani, e voi se venite in chiesa lo sapete. E far parte in una chiesa è veramente un sacco di fatica che consumerebbe chiunque, non potete fingere a lungo. Non c'è nessun beneficio a lungo termine per questo, per nessuno di essere parte di una chiesa locale che crede nel Vangelo, perché quando la battaglia è in furia, quando la battaglia spirituale è nel suo peggio, quando bisogna mettere le mani all'aratro e prendere la fionda, cosa faranno quelli che fingono? Non possono resistere a lungo. E la seconda cosa è: ci sono persone nella Chiesa che stanno vivendo in contraddizione a ciò che predicano? E io sarò il primo a dire, come pastore, assolutamente sì, ci sono molti che vivono in contraddizione a ciò in cui credono. Sì, dico questo, ci sono volte in cui io vivo in contraddizione a ciò che noi predichiamo e insegniamo. Ma questo è ovvio, è proprio un fatto, che io a volte ho un cattivo atteggiamento, a volte sono irritabile, a volte ferisco con la mia parola anche alle persone che amo di più, a volte passo qualcosa con le mie parole in modo sbagliato, contraddicendo i frutti dello Spirito. Questo mi squalifica? Assolutamente no, e voglio mettere a fuoco questa cosa e non voglio che nessuno che ascolta si batta il capo o si senta di non essere all'altezza, che non sta raggiungendo il livello, lo standard. Voglio chiarire qualcosa sul cammino cristiano. La Chiesa è tutto, riguarda completamente imparare, camminare, crescere. imparare le abitudini di santità e purezza. La chiesa significa anche sviluppo, autocontrollo. Potete stare seduti, ascoltare e dire: ho raggiunto l'autocontrollo, ma non ho ancora raggiunto la pazienza, oppure adesso ho ottenuto la gioia, però adesso sto lavorando sulla mia gentilezza, sui miei comportamenti gentili. Vedete, quando veniamo in chiesa, quello che stiamo facendo, scavando nella parola, pregando, usando i doni a nostra disposizione, io sto venendo a imparare come mettere da parte i miei appetiti, sto imparando come crocifiggere la mia carne, sto imparando come mettere, come indossare la mente di Cristo, come camminare nello Spirito. Lo faccio perfettamente, naturalmente no, ma voglio che voi capiate questo. Ma che se qualcuno sente che voi come cristiani siete degli ipocriti e vi giudica, vuol dire che lui si è messo in una posizione di giudice verso dei cristiani che sono in progresso. Guardate questa cosa, gli atleti a volte mancano una palla. Quindi se qualcuno ti definisce, sente che tu sei un ipocrita solo perché non hai ancora raggiunto l'obiettivo come cristiano, significa che questa persona si è stabilita come un giudice duro, severo, per raggelare, quasi tagliare le gambe ai cristiani in progresso. Quando un atleta perde la palla, manca il rigore, quando un atleta manca il tiro libero, i loro fans continuano a fare il tifo per loro, nessuno li chiama ipocriti. A volte manchiamo il traguardo, il bersaglio, a volte l'ingegnere deve tornare, manca qualcosa, sbaglia qualcosa, torna al tavolo di lavoro. L'atleta torna in palestra a riallenarsi di più. Allo stesso modo, noi cristiani torniamo alla croce sul Calvario per essere lavati di nuovo, ripuliti e ci rimettiamo in piedi per imparare la perfetta santità e imparare a perfezione l'amore di Dio. Questo è il beneficio di essere parte di una chiesa sana. Questo è il beneficio di essere parte di una chiesa in salute. Il beneficio è che quando voi state in difficoltà, quando siete dove non dovete essere, la vostra mente comincia a pensare cose che non dovreste pensare, avete una famiglia che verrà accanto a voi, correrà accanto a voi. Ci sono persone che andranno a versare olio e vino, che piangeranno con le vostre perdite, che gioiranno con le vostre vittorie, persone che vi sosterranno nella gara, perché nessuno ha fallito finché non smette di rialzarsi. E Gesù è un esperto di rimetterci in piedi negli affari, di farci continuare le gare. Quindi quando qualcuno dice che voi siete degli ipocriti, avete già pronto un bel sermone per spiegare quel cammino cristiano che noi chiamiamo discepolato. Bene, un altro mito, e mi piace quando le persone parlano di questo, perché lo sento tutto il tempo. Loro dicono: io non credo nella religione fatta dagli uomini, creata dagli uomini. Eppure dicono: la Chiesa non è altro che una religione fatta dagli uomini. E usano questa scusa per non andare in chiesa. E io, ma a me piacerebbe un giorno che qualcuno mi dicesse questo e poi dare una spiegazione della storia della Chiesa per farvi capire, perché nella loro testa loro credono in qualche modo che la Chiesa sia davvero fatta dagli uomini. E adesso bisogna diventare un po' spirituali, spero che voi state prendendo la mente di Cristo spirituale pensando a questo argomento. Guardate che cosa ha detto Gesù: su questa pietra io edificherò la mia Chiesa. E l'ultima volta che ho controllato teologicamente mi risulta che Gesù è Dio, è Gesù che sta costruendo questa chiesa. Gesù è Dio, lui sta costruendo la chiesa, lo dice lui, la chiesa non è fatta dagli uomini, è fatta da Dio. Lui è quello che crea, lui è quello che la stabilisce, la edifica sulla sua roccia. La chiesa non è fatta dagli uomini, ma è fatta da Gesù. Come Consideriamo un'altra cosa, il compleanno della Chiesa, il giorno di Pentecoste. Il giorno di Pentecoste, gli storici ufficiali della Chiesa vi diranno che la Chiesa è nata quel giorno. La stanza dei 120, lo Spirito Santo versa il suo, si riversa su di loro escono nelle strade, predicano e 3.000 persone vengono salvate e vengono aggiunte alla Chiesa da quel momento e da quel giorno la Chiesa inizia a moltiplicarsi e ancora oggi Dio aggiunge a questa Chiesa. Voglio che noi cogliamo questo e che lo capiamo bene. Se la Chiesa è nata nel giorno di Pentecoste, dove i 120 sono stati battezzati con potenza e 3.000 sono stati salvati grazie a un predicare con unzione, questo significa che la Chiesa è stata stabilita da Gesù stesso e che la Chiesa è stata equipaggiata sovrannaturalmente da Gesù stesso. Questo significa che la Chiesa non è fatta dagli uomini, ma è fatta da Dio, è fatta da Gesù. Quindi la Chiesa è equipaggiata direttamente dallo Spirito Santo. Quindi adesso abbiamo Gesù, abbiamo lo Spirito Santo, la Chiesa è fondata da Gesù, dallo Spirito Santo. Quindi Gesù e lo Spirito Santo sono coinvolti nella fondazione della Chiesa. E a meno che io non mi sbagli, questo non significa che la Chiesa non è fatta dagli uomini. Un'altra cosa importante da capire riguardo alla Chiesa che non è fatta dagli uomini. La Chiesa è stata acquistata con il suo proprio sangue. Questo vuol dire che non è fatta da uomini. Questo è un atto soprannaturale. Quando il sangue divino viene applicato, a uomini caduti, c'è pulizia, c'è redenzione, c'è la santificazione che accade. Ancora un altro atto soprannaturale necessario perché si possa stabilire la Chiesa. Perché la Chiesa, tu non puoi essere parte della Chiesa se non sei nato di nuovo, devi essere qualificata. La Chiesa è la riunione dei qualificati. La Chiesa primitiva erano perseguitati. Una delle ragioni che venivano perseguitati è perché i romani li accusavano di avere incontri segreti. Nessuno poteva partecipare, ma in realtà non erano incontri segreti. Erano degli incontri ai quali solo i nati di nuovi erano ammessi a partecipare. Quindi era compreso da tutti che queste riunioni erano solo per i nati di nuovi. Noi per i nati di nuovo, noi abbiamo un po' capovolto la comprensione di questo nella nostra Chiesa odierna. Noi vogliamo essere così amichevoli con i non credenti, anche con quelli che hanno dei comportamenti contrari a Dio, che annacquiamo tutte le cose perché crediamo di portare più cittadini possibili in chiesa perché possano essere salvati. Questo è carino, è apprezzabile, ma la chiesa non è il luogo dell'evangelismo, è la riunione dei santi. Noi amiamo battezzare, noi battezziamo persone continuamente, dal mese di giugno ogni mese, una settimana sì, una settimana no, noi abbiamo battezzato, ma la Chiesa non è il luogo dell'evangelismo, è la riunione dei santi, dei chiamati. Noi siamo chiamati ad andare ai peccatori, a portarli al Signore, andare nei mercati, nelle loro case, per strada, nelle tende. Ma poi loro vengono in quel modo, dopo che sono salvati, vengono aggiunti alla Chiesa. Noi siamo così amichevoli verso i peccatori che non siamo più amichevoli verso la Chiesa. La Chiesa è diventata così amichevole verso i ricercatori che non è più amichevole per i discepoli, perché si possano essere discepolati, ricevere insegnamenti e essere riempiti di Spirito Santo. Chiesa, forse è il tempo di scoprire, rivalutare chi siamo. Noi siamo il corpo di Cristo e quando veniamo insieme nelle nostre riunioni è come se le parti del corpo vengono insieme per essere posizionati allo scopo che il capo di questo corpo possa prendere il suo proprio posto, il che il corpo possa ricevere il nutrimento di cui abbiamo bisogno, finché noi possiamo lasciare l'assemblea con un senso di missione, equipaggiati, ripieni di missione, ringioveniti, ricaricati, pronti per stare là fuori a fare quello che dobbiamo, perché Cristo, quello che Cristo ci ha mandato a fare. Se noi leggiamo nel Nuovo Testamento cosa la Chiesa è davvero, noi vediamo che Dio, in 1 Corinzi 12, di nuovo la Chiesa dice: Dio mise, ha messo i doni spirituali nella Chiesa. Dio lo ha fatto. Dove li ha messi? Nella Chiesa, non sul palcoscenico, non negli auditori, non negli stadi, non nelle strade, non dove si fa campagna. L'ha messi nella Chiesa e poi la Chiesa dice: ha messo doni operativi, doni pratici. Sempre 1 Corinzi 12 è molto chiaro: Dio ha messo questi doni nella Chiesa. Poi la Bibbia ci dice in Corinzi e ancora in Efesini che Dio, che Gesù mise nella Chiesa apostoli, profeti, evangelisti, pastori, insegnanti. Dove? Nella Chiesa. Non alla TV, non alla televisione, non su YouTube. Dio mise apostoli, profeti, evangelisti, pastori, insegnanti nella ecclesia, nell'assemblea dei chiamati, nella riunione dei convocati. Come possiamo essere la Chiesa se non siamo riuniti? Come possiamo operare nei doni che edificano? Che ci edificano l'un l'altro come membri se non siamo riuniti. Come possiamo seguire il discepolato evangelistico di profeti, apostoli, pastori, come possiamo, pastori, come possiamo funzionare nei ministeri, come possiamo funzionare nei nostri ruoli assegnatici se non siamo riuniti? Dobbiamo ricordare a noi stessi che Dio ha fatto questo, Gesù ha costruito la Chiesa, lo Spirito Santo battezza con potenza la Chiesa è comprata con il sangue, l'alto, altissimo valore del sangue di Gesù. E adesso come siamo riusciti ad arrivare al punto in cui trattiamo la riunione dei convocati, dei chiamati, così alla rovescia? Come nulla, come se fosse una scomodità per la nostra agenda o facendo scuse per non partecipare, senza capire che Gesù dà la sua propria presenza quando noi ci uniamo nell'assemblea. Questa è un'affermazione della Chiesa, non voglio andare troppo oltre, sono passati non so come più di 40 minuti dall'ultimo momento che ho guardato l'orologio, lasciatemi concludere questo, ma dobbiamo capire questo, e devono capire questo. Non c'è nulla di fatto dagli uomini nella Chiesa. Io amo la Chiesa. È una bella cosa la riunione dei membri. Io sto desiderando così tanto di essere nella casa di Dio, nell'assemblea riunita, vedere le vostre facce, vedervi amare l'un l'altro, vedervi sorridere, ridere e passare un bel tempo insieme, ma finché quando questo accadrà, abbracciamo quello che è il corpo di Cristo e ciò che esso significa. Se avete tanto desiderio di essere di nuovo nel corpo di Cristo, perché non vi preparate già adesso? E non appena si apriranno le porte, perché non correte lì e abbracciate pienamente la vostra Chiesa e non lasciatevela sfuggire mai più? Ho la lista delle cose belle che mi sono accadute in chiesa. Sono stato salvato in chiesa. Forse voi siete stati salvati da qualche parte, in una stazione di autobus o in un dormitorio, ma io sono stato salvato in chiesa. Sono stato santificato in chiesa. Sono stato battezzato con lo Spirito Santo ed è accaduto in chiesa. Mi sono sposato in chiesa. Sono stato battezzato nell'acqua. In chiesa, forse alcuni di voi nell'oceano, in un fiume, io stesso vi ho battezzato alcuni di voi nell'oceano, ma per me è accaduto in chiesa, ho dedicato i miei figli in chiesa, ho battezzato alcuni di voi in chiesa, ho visto alcuni di voi guariti, i vostri corpi guarire, essere guariti in chiesa, alcuni di voi erano arrivati all'ultimo, allo stremo, non potevano andare più avanti un ultimo giorno, ma Dio è venuto e vi ha visitato soprannaturalmente e vi ha restaurato. Alcuni di voi erano legati, avevano legami di dipendenza, oppressi dall'ansia o dalla depressione. Ma poi siete entrati nella casa di Dio, avete sentito la presenza vivente dello Spirito Santo. Dove è accaduto questo? È accaduto in chiesa. Le persone vi hanno imposto le mani su di voi, hanno pronunciato parole di saggezza, parole di conoscenza sulla vostra vita e tutto questo è accaduto in chiesa. I matrimoni si sono ricomposti in chiesa. Probabilmente voi avete una lista di memorie di grandi testimonianze in chiesa. Questo dove è accaduto? In chiesa. Io sono pronto per qualcosa di grandioso che accadrà in chiesa. E adesso sono pronto perché abbiamo riunioni su Zoom, abbiamo avuto la lavanda dei piedi, abbiamo avuto la comunione su Zoom. Questa domenica alle 6 le signore si riuniscono per il Ministero delle Donne, Women of the World. Quindi chi di voi vuole unirsi a questa riunione delle 18 potete unirvi voi, ma avremo anche la riunione degli uomini, siamo comunque ancora connessi. Parliamo ancora, ognuno di noi parla nella vita degli altri. Questa è la Chiesa, non vi manca, non l'amate, non date valore a questo. Questo è il corpo di Cristo. Lasciatemi chiedere questo. Ogni volta io prego così. Se non siete nati di nuovo e state guardando questo, avete visto? Oh, ecco, magari siete stati qui in chiesa 4-5 anni fa, ecco il Papa Pastore Andrew, mi ricordo ancora, non sono più stato in chiesa dopo. Non è forse tempo che lo Spirito Santo vi sta bussando sulla spalla? Non è forse tempo? Pensate che sia un caso che vi siete capitati qui sullo schermo? La chiesa è fatta dai nati di nuovo. Se voi siete una pecora smarrita, lui vuole che voi veniate a casa. Il buon pastore vi sta cercando, vi sta inseguendo, vuole riportarvi nel gregge dove voi, a cui voi appartenete. Perché non oggi? Io vi guiderò in una preghiera, farò qualcosa. Vi guiderò adesso nella preghiera del peccatore, la preghiera semplice. Se siete pronti a pregare questo, voglio che inchiniate il vostro capo e se volete ancora di più, io scrivetemi, io vi messaggerò su Facebook in privato. E vi guiderò, vi parlerò fino ad arrivare di nuovo, tornare a casa dal Signore. Ve l'ho detto già la scorsa settimana, voglio battezzare così tanto quando torno che voglio che le mie mani siano tutte rugose per l'acqua, per l'umidità. E adesso inchinate la testa e anche se siete già nati di nuovo, questo è un grande momento per riimpegnarsi. Padre, nel nome di Gesù vengo a te adesso. Pregherò la preghiera del peccatore. Chinate il capo. Padre, nel nome di Gesù vengo a te adesso. Nel nome di Gesù pregherò la preghiera del peccatore, a nome di tutti quelli che sono pronti a tornare a te o a venire a te per la prima volta, per nascere di nuovo. Proprio adesso, Signore, vengo a te come peccatore, vengo a te senza scuse, vengo a te riconoscendo e confessando che ho commesso molti peccati, che la tua parola dice quelli che la tua parola definisce peccati. Non faccio scuse per questo, non provo a giustificarlo. Sono colpevole e vengo a chiederti che tu voglia perdonarmi, che tu voglia perdonarmi di tutti i miei peccati, dal giorno in cui sono stata capace di peccare fino ad ora e anche del peccato in cui sono nata. Lavami, ripuliscimi, santificami e vieni a rendermi giusto grazie al tuo sangue, perché io credo che Gesù è il figlio unigenito di Dio, il Salvatore senza peccato, che è venuto sulla terra come uomo, che è morto sulla croce per pagare per i miei peccati, che è andato nella tomba, il terzo giorno è risuscitato ed è salito alla destra del Padre, alla destra di Dio, ed è vivo e sta bene, del mio intercessore, del mio alto, altissimo sacerdote. Io credo che tu ascolti la mia preghiera, che mi lavi. Io credo che ritornerai qui di nuovo per la tua chiesa e voglio essere parte di quello. Ricevimi, scrivi il mio nome nel tuo libro, io ti obbedirò e ti seguirò e obbedirò il tuo comando di essere battezzato e di confessarti pubblicamente. E io imparerò la tua parola, la studierò la tua parola e ti seguirò da questo giorno in poi come una delle tue pecore e mi aggiungerò alla tua chiesa. Fa che così sia oggi. Prego questo nel nome di Gesù. E ognuno che ha pregato questo dica Amen. Io prego per tutti voi che state guardando, voi belle persone, anche qualcuno di voi, un paio di voi giù in Sicilia, non so cosa state facendo, svegli di mattina, sogno alcuni altri di voi, io vi vedo svegli, alcuni di voi qui negli Stati Uniti. Quando vedete questo post, vedo Wesley Jones sulla costa est, ho visto qualcun altro sulla costa west. Sono grato per tutti voi, sto pregando per voi, che Dio vi incoraggi attraverso questi culti, questi messaggi al di là dei continenti, attraverso la fede, non attraverso la paura. Avete sentito? Fede, non paura. Vi voglio bene, ragazzi, vi vedo presto mercoledì sera. Ciao.